say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like... Tremate, tremate. I like potato. You like tomato, and I like tomato. Le simpatiche sono tornate. Tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. Lo sappiamo che state recuperando patatine, birre, tipo quando si guarda la TV. Dai, venite qua a trovarci negli studi e portatecele anche a noi. Perché la fame ci si incolla. Oysters and I go for oysters. I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off. I say no, sempre perché dura 7 giorni. Noi abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi e soprattutto finalmente torniamo ai nostri cari vecchi gossip. No, e anzi, poi cari comunque, nuovissimi gossip. Sì, noi seguiamo, lo sapete che abbiamo a cuore la vita personale e quotidiana di tantissime star. Abbiamo accolto con gioia l'anno scorso il suo coming out, sempre grazie a Vanity Fair, che è una rivista nella nebbia, proprio un faro nella nebbia. E che diceva questa settimana Vanity Fair? Che Tiziano ha rilasciato questa intervista e ha detto che si è fidanzato. Allora io voglio... Ed è felice. Sotto Natale, che belle notizie. Io voglio leggere un estratto dell'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, perché è carino raccontare appunto questo suo spaesamento, che finalmente, no? Finalmente poteva uscire allo scoperto e conoscere il mondo, un altro mondo. L'aggiunto. I primi 2 mesi dopo il coming out sono stati strani. Questa è la voce di Tiziano Ferro. Non lo so imitare. Ma c'è qualcuno che al karaoke invece Tiziano Ferro lo sa cantare molto bene. Con tutto il mio entusiasmo, la mia voglia di scoprire, di avere contatti, ero come un bambino che guida una Ferrari. Te lo immagini, ero tutto contento. Ho cominciato a vedere un mucchio di persone, a frequentare posti. Il muro che avevo alzato tra me e gli altri era crollato. In giro c'era un sacco di buona disponibilità. Leggi, tutti mi seguivano. Ma io non ci stavo di testa. Non ero cambiato molto e gran parte delle mie insicurezze e insoddisfazioni erano ancora lì. Mi sembrava di stare dentro Sex and the City. Vabbè, non so se ha presente quella puntata in cui Carrie paragona i tipi che incontra un freak show. Comunque cioè, lui è proprio gay. È proprio un romanticone. È un romanticone. C'era l'uomo a due teste, quello con la tripa personalità. Io ho trovato l'aspirante manager, il piccolo psicanalista e via dicendo. Insomma, l'inizio è stato piuttosto inconcludente e anche un po' deprimente. Vabbè, provava e non trovava l'anima gemella, non trovava quello giusto. All'inizio ero preoccupato. Ma il mondo sarà mica tutto così? Tiziano Ferro, ti voglio rispondere anche io, cioè non è che c'è bisogno di essere etero o omosessuali, di pazzi ce ne sono tanti, non è che trovi sempre quello giusto, eh? Poi l'ho presa a ridere, mi sono detto che almeno avrei avuto un bel po' di aneddoti per far divertire gli amici. Quindi ho messo da parte le speranze, ma senza fare drammi. Mamma mia, e proprio nel momento in cui ho deciso che stavo già bene così, è arrivata una persona speciale. È proprio quando meno te l'aspetti, Tiziano, succedono queste cose. E da quant'è che dura? Dallo scorso Natale. Praticamente. Ho sempre pensato di essere nato per vivere in una relazione stabile, ma non l'avevo mai sperimentato. D'altra parte, con le canzoni che ha scritto prima, che era depresso, mamma mia, quelle che ci scrive, quanto è allegro. Infatti, no, poi dice: sono un romantico, vedi, lo dice anche lui. Te credo. Ho sempre sognato l'amore. No, se pensavo la monogamia. Se mi fossi scoperto insofferente, sarebbe stata una delusione. In tutti questi anni mi ero abituato all'isolamento, alla totale indipendenza. Questa esperienza mi sta mettendo a confronto con limiti che, vabbè, poi qui è come si vive la coppia. Possibilità di sapere di chi si tratta? No. L'unico lato che subisco del mio lavoro è l'esposizione pubblica. Ecco, va bene. E poi niente, vabbè, lui che dice che è tanto contento. Tutti sono contenti. Noi siamo contenti per te, figurati. Uno sta bene, perché no. Comunque, le prossime notizie che vogliamo sapere è che fra 2 anni lui ha abbandonato la monogamia e ha scoperto l'amore libero. Io spero pure che, non lo so, magari che si va a sposare in Spagna oppure negli Stati Uniti, in Columbia, non lo so. Beh, ce lo vedo lui con un latino messo. Si incontra Ricky Martin. No, Ricky Martin è sposato con 2 figlie. Lascialo stare. Ma chi l'ha detto che è gay? Ricky Martin? No, sì. Sì, è sposato con no, ma è sposato con un uomo e ha adottato 2 figlie. Ah, anche lui la monogamia di cui sopra. Sì. Ah, se non ci fossero le lesbiche, dico io. Dico io, che mondo sarebbe? E noi me l'hai trovata quella canzone che mi piace tanto? Quale vuoi? Facciamo jukebox in diretta. No, mi sembri la tipica persona che entra nel negozio di dischi. Io vorrei quella che fa no, che questa se l'hai indovinata chi era. Dai, no, su, dimmi. Non te la posso cantare. Ma non me la cantare, dimmi il titolo, no? Non me lo ricordo. Se tu mi dici i titoli, però vabbè, mettine una che vuoi e poi dopo te la canto così, a microfoni spenti. Così poi mi dirai, ah, non era quella. Sì, e poi dopo vi parliamo un po'. Parliamo un po' di sesso raccontato da Men's Health, così facciamo un po' ridere i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Racconto l'aneddoto che l'altra volta, quando abbiamo letto l'articolo di come si faceva a misurarselo, ci hanno chiamato e ci hanno detto: forse non so se è molto politicamente corretto, però mi state facendo ridere proprio tanto. E questa cosa a noi ci è piaciuta. Ma non siamo noi, in realtà è il giornale che abbiamo deciso di. Sì, a noi non ci interessava essere politicamente corrette, ci interessava farvi sapere che cosa c'è nel mondo là fuori. Lo sapete benissimo, però magari, che ne so, frequentate degli ambienti di nicchia dove sono tutti simpatici e simpatiche, e vi diciamo che il mondo là fuori è molto brutto. Lo sanno già. 06 49 17 50. E cosa ci ascoltiamo? Kelly. Era quello che volevo sentire io, sappiatelo. Yeah, I'm telling you, boy, you're wasting your time on them. The good stuff's right here. I seen you when you walked in, stealing all the light. You're the type of guy that makes them fly girls fuss and fight. They can't love you more, not the way you wish it for. They go about it all wrong, only experts get it right. Sick of them knowing who you are. roof under the suit, no need for alarm. The way I flow through the club, call me Disco Dawn. But my name's still terror, still the world in my palm. Your chicken heat, front passenger seat, loading my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex, my hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you sing, you really wanna bang. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. You want this, you don't want that. Hair curls, you don't want it back. And if you want the next one, you should repeat after me. Rieccoci in direttissima. Che musica che vi facciamo sentire. Che musica, wow. Poi lei è bellissima comunque. Sì, con quella chioma. Io me la ricordavo quando cantava quella canzone che avrei voluto che tu mettessi. Adesso la devi. Dai che ti regaliamo una spilletta del martedì. A chi? A me? Certo. Per quale motivo? Perché adesso ci canterai la canzone. No, è veramente difficile. Lei ha una voce che sembra afona, non so capace. E vabbè, ce la stiamo risparmiando. Sì, pensatela così. Allora, no, era il momento della verità. Della verità, no, è il momento del lato serio. Allora, cioè questa rivista si chiama Men's Health, per la salute degli uomini. La salute proprio. Con sottoscritto, o con sottotitolo, il piacere di essere uomo. Vabbè. Ah, allora, questo articolo si intitola già. È tremendo proprio. Massimizza il piacere. Certo, come massimizza il profitto? Sì, come, perché il piacere si massimizza. Questa cosa già fa orrore. E cosa si fa per massimizzare il piacere? Devi trovare come fai a massimizzare? Dici bene, numero uno, numero due, numero tre, numero quattro. Cioè ci sono cinque numeri. No, cinque ci sono pagine. Le varie cose. Massimizza il piacere, poi tempo che hai, sesso che fai. E ti dice: se hai, no, devi fare sesso, però quanto tempo c'hai? Ti dico quello che ti conviene fare. Allora, hai 5 minuti? Hai 5 minuti? Lascia perdere. Hai 5 minuti. Infatti, in teoria io ti direi: lascia perdere proprio, lascia perdere, vai avanti, va, offrile un caffè. Offrigli un caffè, uomo o donna che sia, c'è 5 minuti, mandagli un sms, perché ti devi concentrare, devi mandare il giusto sms, quindi manda quello giusto se c'hai 5 minuti. Però qua propongono le sveltine. Ma dai, comunque sì. sono originali. Poi dai 5 minuti si passa direttamente 30 minuti. Cioè una via di mezzo non esiste. Vabbè, d'altra parte. Concediti del tempo per esplorare, anzi per esplorarvi vicendevolmente, bla bla. Ma non bla. Troppo, perché sennò poi. Hai un'ora? Se hai un'ora, guarda, già allora stai a cavallo, se hai un'ora. Ma poi c'è la chicca, hai tutta la notte? Vattene a dormire. Dai, su. Riposati per una volta così. Ma che ce fai con tutta la notte? Che ce fai? Ma lui niente, probabilmente. Lei, men che meno, se aspetta lui. E quindi queste erano le perle di saggezza di Men's Health, che non vado nello specifico. Io dico semplicemente, no, appunto, ci sono questi quattro paragrafetti, dei cinque a tutta la notte, senza passare scegli per tu. Senza passare per le mezze misure proprio. Perché tipo va a quarti, neanche a quarti d'ora, va a mezz'ora. Stanno avanti proprio. A parte i 5 minuti va a mezz'ora, scusa, su 3. Io direi di dedicare il 6 un mito. A loro. No, non a loro. Ad una personaggia a cui qualche anno fa, nelle edizioni precedenti di Spirito di Patata, avevamo dedicato anche un Sono tra noi. Lo ricordavate la nostra parentesi, rubrica radiofonica del Sono tra noi? mettevamo la musica. Cioè, se siete ascoltatrici di vecchia data, di lunga data, come si suol dire, ecco, degli aficionados. Degli aficionadas. Lo zoccolo duro. Lo zoccolo duro, che cosa dirà? Dirà che il sono tra noi, voi vi davamo tre indizi e voi indovinavate chi era la lesbica tra noi non dichiarata. A volte dichiarata sì, a volte dichiarata no. A volte ni. A volte invece l'abbiamo anticipata noi. Il sei un mito di oggi è sei un mito perché nel frattempo, mentre preparavamo gli articoli da leggervi, c'era dietro dall'altra parte del vetro, no, c'era un coro di compagni che dicevano: ma dai, ma guarda come è diventata, guarda che fa, perché in no, questi giorni, no, infatti la promessa è questa: avete camminato in giro per Roma e avete preso almeno un tram, perché sta a te il poster e sito quasi in tutte le fermate dei tram, che è così che l'ho visto io. Che se poi vai a vedere sul sito di questa tizia, sembra la pubblicità, non so, delle spose di Joe, per come si è vestita. No, il sito non c'entra niente con lei. Lei non c'entra niente col sito, e tantomeno col poster. Di chi stiamo parlando? Allora, di un mito. Un mito per motivi che spiegheremo poi, che nei prossimi giorni sarà in concerto a Roma insieme ai Gem Boy. Soprattutto insieme ai Gem Boy. Ragazzi, fateceli vedere. Stiamo parlando di Cristina D'Avena. Il poster in questione è poster molto anni 90, fine 80, inizio anni 90, in cui lei c'ha il frangettone con dei colori dietro viola, un po' i colori Invicta che andavano di moda, sì, nei primi anni 90, e appunto lei sarà in concerto con i Gem Boy, che non è scritto con la J, ma è scritto G e M. Ma la cosa più inquietante del Gem poster, cara ascoltatrici, è l'espressione di lei, che questo sottinteso: se a 12 anni ti facevo cantare la sigla dei cartoni animati, pensa adesso che te posso far cantare. Lei canterà ugualmente la sigla dei cartoni animati con gli spettatori e le spettatrici tutti contenti che stanno là sotto, che dicono: guarda, io ci vorrei proprio andare. Mi dico con la lacrimuccia, no? Quando ero spensierata. A parte che è arrivata lei e ha ricantato monopolizzando tutte le canzoni, comprese la famosa sigla di Lady Oscar, che se poteva stare ferma era meglio. Ah, no, la cosa che volevo dire io: ci saranno tutti quanti con la lacrimuccia pensando: ah, quando scambiavo solo le figurine era la mia unica preoccupazione. Cioè, proprio la libertà dei 6-7 anni, dove la tua unica preoccupazione era avere la numero 127 dell'album dei Puffi. Ecco, ripenserà e riuscirete, dagli non so, angeli, ad avere come cantava qualcuno di qui sopra. Allora, nel frattempo, mentre noi preparavamo Spirito di Patata e leggevamo il palinsesto, dietro dicevano: no, ma guarda, nel sito ci sta nel sito di Cristina D'Avena, ci che sta, è gigantesco, che neanche gigantesco. Fosse gli due il cartoon quiz, tutte le news con i concerti, che con te la perdi, la sua biografia, la discografia, la photo gallery, la video gallery, il guest book. Scrivimi, perché tu c'hai 35-40 anni. Ma che 35? Non tu, non lei, cioè, no, tu, che magari io ho 35-40 anni, mi ricordo i cartoni lei animati. Lei ce n'ha 45. Ma dopo guardo la biografia, forse secondo me se l'è pure lavati un po' di anni. Ma giusto un po'. È nata nel 64. Sì, c'era quasi 50. 46. Vabbè, no, è fantastico. Evviva, evviva lo Star System. Evviva lo Star System, che si ricicla così. Si mette a fare i concerti, secondo me, perché va finito e paga il mutuo. L'ha pure detto? Credo di... Dovremmo cercare. Cerco Cristina D'Avena mutuo. Vado a vedere dopo. E vabbè, è un mito. Lei è un mito per tutti, perché ci ricordavamo quando hanno fatto una specie di telenovela che era Licia, Kiss Me Licia. E lei c'era, lei che faceva Kiss Me Licia. Ma i bui anni 80. I bui anni 80. E vabbè, ha fatto. Va bene, andiamo tutti al concerto. Andiamo tutti al concerto. Che ci metti? Mille Sciro adesso? No, mi piacerebbe, invece no. Ci mettiamo qualcosa di molto diverso, my name. Leggermente più elegante, leggermente. his games as e Ursula Rucker came and came, then he changed my name, called my blackness untamed. He put me in chains, then he changed my name, then he changed my names, but now I will rewrite history. Sister, I see you off in the distance, coming at me like a twister, packing more force than a four-time heavyweight champion. Kinky coil-topped cauldron of pain, passion, and black mama strength, hell-bent on making your mark in this world. Angry ghetto grown whirler girl, swirling, twirling your way through the darkest of days and the brightest of nights, trying to fit some love in between. Super sister, super sister, sister, super sister, sta. Cioè, ma vuoi mettere altro che Cristina D'Avena, santa perché Maria. No, perché no? Prima, un giorno facciamo come ha fatto Fiorello l'altra sera su Rai 1, un'incursione, e quindi manderemo Tizia, io me lo sento, un giorno usciranno 5 minuti di Tiziano Ferro da questi microfoni. Se lo augurano in molte e in molte. Lo so, lo so. Just to be attaccato a Tiziano Ferro avremmo dovuto dare una notizia, ma siccome, gossip, siamo, ma siccome siamo un po' bruciate e facciamo le scalette data, poi le butti come la lista della spesa, per la lista della spesa l'ho lasciata, dice, a casa, l'ho lasciata. E che l'hai fatta a fare? Niente, era un poi compri tutt'altro, torni a casa, ritrovi la lista e dici porca miseria, ero riuscita a comprare lo zucchero di canna, me lo so scordato l'altra volta. Era un esercizio di stile. Qual era? Qual era? Allora, la notizia è su Chats Bono, e voi dite chi è Chats Bono? È la figlia di Cher che ha cambiato sesso. Prima si chiamava Chastity Sun Bono, certo l'aveva chiamata Castità Sole, Chastity. Vabbè, cioè ma tutte con le C. E quindi cambiando sesso, anche cambiato nome, e si chiama oggi Chats. Ha anche hanno fatto anche un documentario sulla sua storia. Il documentario si intitola Becoming Chats, diventando Chats. E ha fatto, quello pare sia bello, un sacco di ascolti sul canale televisivo di Oprah Winfrey, che non so quale sia, però secondo me se andate a cercarlo lo trovate. E che cosa succede a Chats? Chats ha fatto una proposta di matrimonio. Si è fidanzato. Dai, comunque sì. Niente, non se ne esce. Sì, no, comunque sì. Dobbiamo cambiare le nostre rubriche. Il mito della monogamia. È un esatto, adesso il prossimo mito della settimana, del prossimo martedì, sarà il mito della monogamia. Molte, molti ci cadono, non importa se siete molte, etero, molti ci lesbico, aspirano. Ok, quello è, molti ci aspirano. Io una volta feci un viaggio, certo, con una persona, no, un antropologo molto importante, che disse: ma voi vi lamentate sempre della poligamia degli africani? C'erano le donne che stavano facendo un viaggio in Africa, ma vi lamentate sempre della poligamia degli africani, e dite sempre: ma perché? Ma vi trovate bene? Vi trovate male? Vi trovate bene? E questi disse: ma in Occidente la stessa poligamia esiste, solo che non è sincronica come in Africa, ma è diacronica. Quindi la monogamia magari c'è, poi dura 2 anni, poi cambia, poi un altro un anno, 2, 3. Sì, e poi vabbè. per non parlare della monogamia di facciata, ma sì, quello vabbè, è un altro tema. E va bene, quindi abbiamo collegato così Chats Bono molto male con quello che avremmo dovuto raccontare insieme alle nuove vicende di Tiziano Ferro, ma non ci siamo riuscite perché siamo un po' rimbambite. Allora adesso, passando di palo in frasca, volevo raccontare così un passant quello che c'è stato negli ultimi giorni, ovvero c'è stato il governo Monti, dove sono saliti Bocco bla bla bla, lo sappiamo bla, bla, bla. Che cosa fanno la Bocconi? Fanno un convegno, i soldi, fanno un convegno di alta intellettualità in cui si parla di Striscia la Notizia e di quello che ha dato Striscia la Notizia alle indagini sociali e piangiamo insieme. Ha fatto un interessante post sul suo blog Lorella Zanardo sul corpo delle donne, andando a chiedere a giornalisti, donne, femministi, collettivi di andare proprio alla Bocconi, chiedendo imboccandogli e dire: ma Striscia la Notizia, che cosa ha dato alle donne negli ultimi 24 anni? Perché parliamone, sono 24 anni che Striscia la Notizia è sul famoso canale del Biscione, quindi il famoso immaginario che immaginario ha creato, altro che battaglie sociali, altro che battaglie, ma che immaginario ha creato? E beh, loro sono gli inventori delle veline. Sono gli inventori delle veline, certo. Hanno iniziato loro. Per questo andiamo a chiedere loro che rendano conto di questo tipo di immaginario, non delle battaglie sociali che tra l'altro non esistono di Striscia la Notizia. Anche perché quelle sono tutti giochi mediatici. E va bene, dopo questa parentesi di... Ma soprattutto alla Bocconi. Soprattutto alla Bocconi, si fa alta ricerca sociologica proprio, sì, altissima. Sì. Ma poi ci sarebbero tante cose da indagare sui media e su... però Striscia. Paura. Andiamo, che ci sentiamo? Mettici qualcosa di allegro, perché a quest'ora qualcuna... Ma non troppo. No, senti me. A quest'ora qualcuna sta rientrando dall'ufficio, sta in mezzo al traffico, sta sulla tangenziale, sta esasperata, quindi c'ha bisogno di qualcosa da cantare, qualcosa di dinamico. Quindi ci serve proprio qualcosa di italiano, perché no, non ti sto dicendo metti Rihanna che per far scuotere la testa, perché ci sono un sacco di altre radio che la mettono. Però non so, fai cantare, che ne so, una Donatella Rettore, oppure mettiamo la Rettore, che è un sempre verde. È quell'evergreen che ci fa cantare tutte quante. Canteremo anche noi. Poi se qualcuno vuole chiamare lo 06 49 17 50 e cantare in diretta, vince la spilletta. E noi la mandiamo in diretta. Però dovete stare in diretta, non potete cantarla solamente a noi. Ma se mettiamo la Gianna, no? Vabbè, metti pure Gianna, perché non l'hai trovata la Rettore. Me lo chiedi all'ultimo secondo. Vabbè, lo so. Non c'è bisogno che scopri tu, che racconti tutte le nostre incompetenze. Ma perché noi andiamo live sull'onda del momento. Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. Senza più fate da rapire, e non è facile giocare se tu manchi. Portami con te, tra misteri di angeli e sorrisi di demoni. E li trasformerò in coriandoli di luce tenera. E riuscirò sempre. questo sondaggio, cioè Valeria sostiene che questa canzone non si possa cantare. No, non la conosce nessuno. Ma cioè, tu non la conosci? No, non la conosce, la conoscono solo le fan sfigatate, quelle che si comprano tutti i dischi di Gianna Nannini, quelle, la comune no, mortale che ascolta le cose in radio, che si sente, che ne so, Radio Italia. A parte che questa idea qualunquista, che il pubblico è ignorante, nel senso che ignora. Ma io non la sapevo. Ah, la verità è questa. Sei solo aria. Vabbè, molti, senti, siccome c'è una vecchia dentro, guarda che ti ho trovato. Ma è contento. Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido. L'avete cantata in macchina? Vi siete sfogate? Anche sul tram, non ti crede che con i mezzi pubblici va meglio. No, l'altra volta sono stata sulla tangenziale per venire qua due ore. Ah, signora mia, cominciamo con i problemi di questa città. Comunque. Vi volevo leggere. Intanto basta che hanno inaugurato la stazione, poi non hanno fatto i parcheggi, hanno bloccato Roma, non l'hanno detto a nessuno, per cui la gente andava a lavorare come al solito bloccata dove? Sulla tangenziale. Io ci invecchio là sopra. Ma credo allora, mezza popolazione. Taxi shock, più 10 anni. Porno, terrorismo e chicks on the speed. Chi sono le sexy shock? Ma chi sono le chicks on speed? Wow. Ma quasi quasi prendo un treno e vengo da te. Da dire da chi sono le sexy shock, perché magari non tutte le conoscono. Sono delle porno terroriste. Io ho visto un video che sono veramente troppo forti, sono simpatiche poi. Sono un gruppo di Bologna. Sì. Che ha che appunto compie 10 anni, quindi è tantissimo che sta sul territorio, ha fatto tante lotte in città, eccetera, manifestazioni, e il loro focus è sempre stato appunto la sessualità vista, diciamo, in un modo molto appunto diverso, un po' come cioè, l'approccio come quello della Lady Fest, diciamo, a una serie di, riappropriamoci di una serie di situazioni e di tematiche, proviamo a farle nostre, ricostruiamo un altro immaginario. Infatti poi le loro campagne, comunque i loro slogan sono molto molto molto a effetto, sono molto particolari. E infatti siccome compio 10 anni sabato, cioè, visto come mi è diventata seria la voce? Che da te, sì, è perché ti stavi spostando, avevi acceso un attimo i neuroni per collegare le sinapsi e ti sei diventata seria. E sabato 3 dicembre a Bologna faranno una festa che si chiama, vabbè, no, più che altro fanno una festa, poi e sta leggendo, premetto questo, poi dice, sarà un workshop che si chiama Consensuality, un workshop che vi farà saltare dalle mutande, e poi la festa che si chiama Katana. Vabbè, purtroppo per noi che siamo a Roma, però esatto. Sono contenta per quelle che stanno a Bologna. La festa si troverà, sarà al Locomotive Club, alla console, poi quando si svolge alla la serata alla console Rogue Glorious at Betty Boop, e poi le Chick the Speed, vabbè, niente, grande serata, e poi è bello festeggiare comunque 10 anni in un collettivo che è nato auto-organizzato. Ma noi l'anno prossimo, ma martedì autogestito da femministe e lesbiche, facciamo la maggiore età, 18 anni. Tia, pensa che party che facciamo, morti e feriti, come si suol dire. E facciamo sì. A proposito, a questo punto, visto che tutti si lodano, si sbrodano, feste 10, 15, 20, 25 anni, vi ricordiamo, ma tanto ve lo ricordiamo anche in agenda, poi ve lo ricordiamo con lo spottino. Da qua fino al 19. Fino al 18 dicembre. Beh, rimasta a quella dell'anno scorso. Quindi ricordatevi, 18 dicembre, sì. Come possiamo fare tipo per creare quello che in gergo si chiama hype. Cos'è? L'hype, si crea l'hype intorno a un artista quando si crea tutta l'aspettativa sul brano nuovo, la canzone nuova, il disco, quando esce, non esce, esce adesso, dopo, l'anticipazione, i 2 minuti, 3 secondi, quello è l'hype. Hype. Sai che si è detta così, no, comunque sì, di 18 dicembre, segnatelo in agenda che tanto è una domenica, non dite che c'avete una cosa. No, da ma fa. Soprattutto che cosa c'è? No, abbiamo un cartellone che fa invidia ai festival. Che cosa c'è? Ci sono un trio che si chiama Taiko no Koe, che è il tamburo giapponese. Poi Francesca Fabris, che fa bossa nova. Tiè. Elisa Lu, sassofonista, jazz, elettrica. Cioè, guarda quanti generi, oh. Poi abbiamo Elena Parascheva e Silvia Balossi. Silvia Balossi con la cora accompagnerà le poesie di Elena Parascheva, che è una poeta. Eli Natali, cioè scusate se poco, e Giulia Nania, cioè scusate proprio. Scusate. Vabbè, non potete mancare. 18 all'Ula Hop, che vi devo dire? De Magistris, è via De Magistris. Sì, via De Magistris. Poi Al Pigneto. Nel frattempo ci arriva un commento da, penso che sia la più esperta qua del martedì, di musica, Dona, che dice: no, sta canzone non solo non si poteva cantare, ma manco si poteva sentire a quella che ti hai. Vabbè, si è parlato con l'indie, stra indie, super indie, indie qui qua. Grazie, no? E noi andiamo avanti. Ti metto le Can Say They're So Sexy. No, posso dirlo io. Can Say They're So Sexy. The one I like more is music. From all the junks, the one I need more is music. From all the boys, the one I take home is music. From all the ladies, the one I kiss is music. Music is my boyfriend. Music is my girlfriend. Music is my daddy. Music's my imaginary friend. Music is my brother. Music is my great-granddaughter. Music is my sister. Music is my favorite mistress. Gotta buy is music. From all the jobs they wanna choose is music. From all the drinks I get drunk of music. From all the bitches, the one I wanna be is music. Music is my beach house. Music is my hometown. Music is my king size bed. Music's where I meet my friends. Music is my hot hot bed. Music is comunque ci siamo dimenticate che non solo ci sono tutte queste popò di artiste, ma poi ci sta pure il DJ set, tra cui appunto le Sisterhoodies Blooming e io. E ah, me. Sì, sì, certo, certo. Vabbè, quindi facciamo tardi. Sì, facciamo tardi. Facciamo tardi, molto tardi. Tardi men in trap. Sono le 17:59, 20 secondi. Noi abbiamo l'ultimo siparietto, così, l'ultimo stacco. Le ultime patate da darvi, da regalarvi prima dell'agenda. E qui in radio ne hanno già parlato, ma perché non parlarne anche noi? E poi non tutti ascoltano la mattina o il pomeriggio. Insomma, non tutte le ciambelle vengono col buco, ma poi soprattutto ci sono avianti. Mi parli sopra, mi hanno queste stupidaggini. E ci sono delle casuali ascoltatrici o casuali ascoltatori del martedì, così come dei casuali ascoltatori di Spillo di Patata, dei casuali. E noi parliamo di che cosa? Di Porto Be Alive, che ci sta anche la maglietta. Che cos'è? Vabbè, è un programma che stanno organizzando al Volturno. Hanno una maglietta che è fantastica. In realtà lo specchietto per me è stata la maglietta. La maglietta, sì, perché stavo vedendo... No, dobbiamo parlare! Sì, stavo vedendo la locandina del programma di questi eventi che si terrà... Di questo evento si terrà al Volturno il 4 dicembre. Cioè, comunque, non lo so, sono 2, 3 e 4. Dicembre 2, 3, 4. Vabbè, sono perché il primo dicembre è la giornata sempre quella là da un bel po' di anni ormai contro l'AIDS e orgogliosamente LGBT e appunto subwoofer, che sono anni che organizzano poi appunto delle serate di informazione e controinformazione per la comunità GLBT sull'AIDS, organizzano questo mega party, questo tre giorni in tre posti diversi. Infatti, perché mi ero fissata al Volturno, infatti, però è il 2, il 3, il 4 dicembre. No, tu ti eri fissata la maglietta. La maglietta, quindi... Che è molto carina. Però appunto il 2 dicembre ci sta la serata subwoofer party al Mucca Assassina. Poi ci sta la serata, ci sta la giornata del sabato 3 subwoofer sauna, la sauna della Mediterranea via Carlo Villari. Il 3 dicembre alle ore 23 c'è il Porn to be Alive party. E il 4 dicembre al Volturno ci sta la tavola rotonda con esperti sul tema, quindi HIV, informazione e controinformazione. I sopravvissuti del party. I sopravvissuti di due giorni proprio dei party. No, però ci sono un sacco di cose interessanti. L'ho sentito questa mattina che erano ospiti di Frodo era ospite di Take It Easy, e ci sono delle cose interessanti proprio nel dibattito di domenica 4 dicembre al Volturno. Si parlerà di informazione, controinformazione, piacere, tabù, di pratiche sessuali, HIV, insomma faranno un sacco di cose, cortometraggi, interventi di cooperative, così come di persone che con AIDS o virus da HIV, insomma io invito ad andare, poi magari comprando la qualcuno ci porta la maglietta, no, uno arriva là, si compra la maglietta, sostiene anche loro di Porn to be Alive, perché no? Perché no? No, perché no? Va bene, ci sta il sito che è iamporntobealive.wordpress.com. Hanno promesso che presto si sposteranno su piattaforma no blogs, in attesa c'è questo. E noi, quando sono le 18:03, intanto ci ascoltiamo la 18:03, ci ascoltiamo la canzone e poi per i saluti. Vai, vai con i saluti. Che questo lo sappiamo che le sisterhood piace. Eccoci qui, queste erano le Grand All Party, abbiamo fatto contenta Donna Sonica, lo sappiamo, noi citiamo le Sisterhood, ricordiamo che questo è il loro martedì, ovvero che quindi stasera sono in trasmissione dalle 22 alle 23, facciamo pure lo spottino, facciamo. Loro sì che saranno serie, brave e precise, con tutte le biografie, i dischi, le uscite, sì, da dove vengono, dove vanno, che genere fanno. Loro sono preparate, loro sono preparate, fatemelo dire. Noi vi salutiamo, come sapete Spirito di Patata, la trasmissione non finisce qui. No, la trasmissione bisettimanale, quindi questo è stato il nostro martedì, il prossimo sarà tra due settimane. E vi ricordo appunto che Spirito di Patata, il femminismo pop, la linea comica del martedì, che è dentro di voi, lo spire, vi aspetta, vi vuole bene, aspetta la birra con le patatine, siete state ascoltando due pazze al microfono. Ma la follia in fondo, che tra bello, poco poi cambieranno maschera e torneranno serie per l'agenda. Ci sentiamo quindi per Spirito di Patata tra due settimane. Cioè ci sentiamo, che ci l'amica sentiamo. Tua al telefono. Ci sentiamo qua, loro ci sentiranno. Ci sentiamo perché è come se anche io mi senti. È un plurale maiestatis. Nadella, non dire che ti si incarta tutto quanto. Per far contenta l'altro pezzo delle Sister Who Is Blooming, mettiamo una canzone di Cristina Donà che sappiamo che piace tanto anche a lei. Così abbiamo fatto contente tutte e due. Ce l'ingraziamo, se vediamo, cerchiamo di ringraziare. E noi ci vediamo appunto fra due martedì, fra pochissimo, Ottimi Sfatti. Tra poco troverete pure il podcast online. Tu intanto hai detto noi ci vediamo, come se loro ci potessero vedere. Cioè, perché vedersi è metaforico, sore. Te non capisci niente. Vabbè, sorella, chiudi. Cristina Donà. Ciao. Ciao. Giapponese. Sollevare le borse della spesa con le mani. Poi cercare la macchina al parcheggio tra i fanali. Cellulare, forse si è spento mentre cercavo le chiavi. Nelle tasche c'è sempre qualcosa che non ricordavi. I palazzi vogliono abbracciare, stralunata, ancora una volta mi metto a fotografare. Giapponese, io mi sento solo giapponese, giapponese, giapponese. I semafori sanno che sono in ritardo. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if